Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, oggi soprattutto Italia, soprattutto Consiglio dei Ministri atteso e anche intervento del Premier Mario Monti al Senato, soprattutto le incertezze sui tempi con cui questa manovra sta uscendo e le modifiche ultime arrivate a partire da quella che riguarda le rivalutazioni delle pensioni, la rivalutazione automatica delle pensioni, quella misura che inizialmente prevedeva non vi fossero rivalutazioni per le pensioni, da lì le lacrime del ministro Fornero, poi un emendamento ha modificato la norma. Adesso, da quello che abbiamo capito, l'emendamento del governo, l'agenzia di qualche minuto fa, per il 2012 si prevederebbe una rivalutazione automatica delle pensioni esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo, mentre nel 2013 sarebbero rivalutate solo le pensioni che sono al massimo 2 volte il minimo. Quindi per l'anno prossimo le pensioni che arrivano a essere fino a 3 volte il trattamento minimo e per il 2013 le pensioni che invece sono 2 volte il trattamento minimo. Le altre non avrebbero la rivalutazione automatica, quindi l'adeguamento, diciamo, al costo della vita. Ancora, per quello che riguarda l'Italia, appunto siamo in attesa dell'intervento di Mario Monti, ci sono novità sulla manovra, ci sono alcune dichiarazioni di nuovo del ministro Fornero per quello che riguarda gli effetti della riforma delle pensioni e soprattutto, come già vi ricordavano i nostri GR, l'ipotesi che è emersa di un prelievo del 25% per le pensioni sopra i 200.000 euro. E ancora la rivalutazione minima delle pensioni, volete sapere quant'è? È 470 euro la pensione minima circa, per cui la rivalutazione automatica, ve la sto leggendo praticamente in diretta, si applicherebbe a quelle che arrivano a meno di 1.500 euro, quindi 1.400 euro per l'anno prossimo, e quelle che arrivano a meno di 1.000 euro per il 2013. Queste pensioni avrebbero la rivalutazione automatica, quindi l'adeguamento al costo della vita, chiamiamolo così. Le altre no. Dicevo, fronte invece che riguarda anche il Consiglio dei Ministri e altri dettagli della manovra, l'ipotesi appunto avanzata dal ministro Fornero di un prelievo del 25% sopra i 200.000 euro, e anche di nuovo quello che riguarda il taglio delle indennità di deputati e senatori. Praticamente il taglio avverrà non per un decreto del governo, ma saranno la stessa Camera, lo stesso Senato a provvedere al taglio delle indennità di deputati e senatori. E poi alcune liberalizzazioni. Qui, allora, i taxi hanno ottenuto, dopo quell'agitazione spontanea che aveva colpito soprattutto i tassisti milanesi ma anche alcuni romani venerdì sera, hanno ottenuto di essere esclusi dalle liberalizzazioni. Il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea viene escluso dall'ambito di applicazione delle misure di liberalizzazione previste dall'articolo 34 della manovra, emendamento del governo presentato oggi in commissione bilancio e finanze della Camera. Però il mal di pancia oggi riguarda i farmacisti. Federfarma, che riunisce appunto i farmacisti italiani, minaccia la chiusura, quindi lo sciopero. Non abbiamo capito bene come, perché poi le farmacie sono anche un servizio pubblico. Dice: a fronte della totale chiusura del governo che si accanisce contro le farmacie sbandierando la sola liberalizzazione della vendita di medicinali come panacea per lo sviluppo e la crescita del paese. Adesso io capisco che Federfarma deve fare il suo lavoro, però non è vero che il governo utilizza la liberalizzazione delle farmacie come unico strumento per aumentare la crescita e il PIL del paese, perché c'è un pacchetto di liberalizzazioni presente, ci sono anche le farmacie, c'è l'ipotesi che nelle parafarmacie, che devo dire bene hanno funzionato, che piaccia o non piaccia, insomma hanno creato posti di lavoro, hanno permesso di comprare farmaci non dietro prescrizione medica anche in luoghi più accessibili rispetto alla sola farmacia. E nessun passo indietro però, dice il ministro della salute Renato Balduzzi, sulla liberalizzazione e quindi sulla possibilità di vendere farmaci di fascia C anche nelle parafarmacie. Una nota la voglio dire, però insomma, io ripeto, capisco che le associazioni di categoria facciano il loro lavoro, non vorremmo vedere come già ai tempi delle lenzuolate di Bersani, che erano delle timide delle liberalizzazioni, il no, gli scudi e la logica. La logica sostanzialmente, le liberalizzazioni le devono sempre fare gli altri. Continuiamo così, facciamoci del male. Allora, vedo già molti messaggi al 349-238-6666, cerchiamo di rispondere perlomeno a gruppi, molte proteste, qualche protesta sulla pagina Facebook di Focus Economia, sulla puntata di ieri, sui dati sull'evasione fiscale. Sappiamo tutti che i redditi sono da impresa, però insomma le dichiarazioni sono pubbliche, le pubblica solo 24 ore ogni anno, andate a controllarle, se avete altri dati, lo dico chi polemizza in maniera un po' saccente, tirateli fuori, pubblicateli sulla pagina di Facebook di Focus Economia e li confronteremo. Noi ci basiamo su quelli che pubblica solo 24 ore, che sono di derivazione dell'Agenzia delle Entrate, cioè la fonte di dichiarazione dei redditi. La polemica era sui gioiellieri 18.000 euro, i ristoratori 18.000 euro e via così, i tassisti 18.000 euro lordi l'anno. I consigli provinciali, restiamo in tema di manovra, i consigli provinciali decadranno entro il 31 marzo 2013. Le sei province che avrebbero dovuto rinnovare i propri organi in primavera, Vicenza, Ancona, Ragusa, Como, Belluno, Genova e La Spezia, sono commissariate. Lo stabilisce un emendamento del governo alla manovra presentato alle commissioni bilancio e finanze della Camera. L'emendamento del governo rinvia in realtà dal 30 aprile prossimo al 31 dicembre prossimo, cioè del 2012, l'emanazione di una legge di applicazione della manovra che trasformerà di fatto, come abbiamo spiegato molte volte, le province in enti di secondo livello. Lo scioglimento di tutti i consigli provinciali, che secondo me tutto sommato è anche una buona notizia, non perché ce l'abbia con le province, ma perché più snelliamo l'apparato della pubblica amministrazione meglio è. Lo scioglimento definitivo dei consigli avverrà il 31 marzo 2013. Deluso, e anche qui non poteva essere altrimenti, dai contenuti dell'emendamento, il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione. Ascoltiamolo al microfono della nostra Anna Marino. Noi giudichiamo assolutamente in maniera negativa il provvedimento del governo, l'emendamento che il governo ha presentato alla manovra, al decreto legge, ha peggiorato quello che era il testo originario e noi riteniamo che ci sia una grave violazione costituzionale, sostanzialmente non ridurrà la spesa. Noi stiamo facendo una riforma delle nostre istituzioni, di una istituzione che ha 150 anni come le province, con un provvedimento per fare cassa. Il trasferimento delle competenze, delle funzioni dalle province ai comuni e dalle province alle regioni, così come abbiamo dimostrato con uno studio scientifico della Bocconi, aggraverà i costi dei servizi e peggiorerà la qualità dei servizi. Ci sarebbe quindi un metodo per risparmiare diversamente da come si è previsto in questa manovra? Non si è voluto affrontare con determinazione da parte del governo il tema degli enti intermedi, le cui funzione potrebbero essere benissimo assolte dalle province, il cui costo è esorbitante ed è sotto gli occhi di tutti, parliamo di 2 miliardi e mezzo di consiglieri di amministrazione, di 7 miliardi di società partecipate, di agenzie. Commissariamenti Genova, La Spezia, Belluno, Como, Ragusa, Ancona, Vicenza sono importanti. Immaginate un commissario prefettizio, cioè anche su questo, sull'amministrazione periferica dello Stato, tolte le province, immaginate cosa sarà di tutti i riferimenti provinciali dell'amministrazione periferica dello Stato. Sarà un caos, dovranno fare marcia indietro, si renderanno conto che questa è una campagna assolutamente demagogica e io tutti quelli che hanno in questi mesi parlato di abolizione delle province poi faranno il mea culpa, purtroppo sarà molto tardi, sarà troppo tardi. E così appunto, ma ripeto, cerchiamo di essere anche, di non fare le verginelle. È chiaro che il presidente delle province italiane non poteva dire sì, siamo contenti che vengano commissariati i consigli provinciali, chiedere al tacchino di anticipare Natale o per meglio dire all'americana la festa del ringraziamento è un po' tanto, dai. I mercati, allora l'euro oggi è debole, 1,3081, che a mio avviso non è neanche male. Nel senso che era un po' strano che l'euro restasse 1,35, 1,36, 1,37 quando tutto il mondo si interrogava su quanto sarebbe rimasto in vita e se sarebbe rimasto in vita l'euro. L'oro nel frattempo è in calo leggermente di un punto percentuale, $1,650 l'once, siamo sempre su livelli molto molto alti. Il petrolio è a $98 al barile. Le borse come vanno? Dopo la sbella di ieri, che è la fotocopia della settimana scorsa, cioè il venerdì chiudono bene i mercati, lunedì prevalgono i realizzi, ma soprattutto c'è stato Moody's ieri, come abbiamo raccontato, e c'è stata anche una lettura un po' più attenta dell'accordo di venerdì, in cui sostanzialmente la Germania ha rinunciato a niente, cioè non ha dato nessuna apertura, nessuna concessione. E se Cameron, lasciatemelo dire, non avesse creato quella tensione, il titolo dei giornali sarebbe stato scontro Francia-Germania. Invece Cameron, un po' così naif, si è attirato tutti i titoli dei giornali ed è passato in cavalleria in secondo piano il fatto che la Germania ha detto no agli Eurobond, no a una banca centrale europea che garantisca in ultima istanza, no a un fondo ancora più corposo nei fatti, e tutto il percorso sulla parte costituzionale, cioè che i vari paesi dell'euro devono mettere in costituzione, che chiuderanno ogni anno in pareggio di bilancio, cioè col deficit pari a zero, è tutta una vittoria della Germania. Ora i giornali però si sono occupati, giustamente anche noi, della rottura britannica. Non avesse rotto la Gran Bretagna ci saremmo accorti forse prima, che intanto è un 1-0 per la Germania. Ancora per quello che riguarda diciamo la borsa, -0,50%, Parigi -0,50%, Milano -0,50%, Francoforte -0,30%, Londra +0,90%, l'America guadagna +0,34%. Oggi, seppur con percentuali basse, si vede nettamente quello che è l'andamento dell'area euro, quindi Milano, Parigi, Francoforte, mezzo punto percentuale di calo. Chi non è nell'euro, Londra +0,90% e appunto l'area dollaro, l'America +0,35%. Da noi la cosa per fortuna non vanno male come ieri, ci sono titoli come Diasorin che guadagnano il 4%, Tenaris il 2,30% come Prismian che è l'ex Pirelli Cavi, Mediobanca +1,81% come Banco Popolare, Mediaset 1,5%, Terna l'1% come Mediolanum, Fiat +0,80%, però di nuovo è pesante il calo di Fondiere Assai, -5,40%, e anche delle principali banche italiane: Unicredito -3,80%, Monte dei Paschi -3,40%, Ubibanca -2,30%, Banca Popolare di Milano -2,30%, e qui la situazione è critica. Devo dire che Intesa San Paolo è l'unica delle grandi banche che va in controtendenza, più 0,20%. Di Fiat continuiamo a parlare, ma avremo un approfondimento su questo, perché sto firmato il contratto per quello che riguarda Fiat all'Unione Industriale di Torino, l'accordo per il nuovo contratto di lavoro degli 86.000 lavoratori del gruppo Fiat. La FIOM non ha firmato e quindi l'intesa è raggiunta da FIM, WILM, FISMIC, UGL, l'associazione capi e quadri Fiat. Lingotto ha confermato tutti gli investimenti per il progetto Fabbrica Italia e il vincolo a rimanere sul territorio nazionale, lo ha dichiarato Rocco Palombella, segretario generale della WILM. Tra l'altro ricordate che lo scorso 21 novembre Fiat aveva invece disdetto tutti i contratti in vigore. Il nuovo accordo ricalca il contratto collettivo di lavoro, quello di Pomigliano, quello pilota, dello scorso 29 dicembre, di un anno fa praticamente. Quindi più straordinari, più turni, 10 minuti in meno di pausa compensati da benefici in busta paga, nuove norme su assenteismo e rappresentanza sindacale. Praticamente il premio straordinario che riceveranno nel 2012 gli 86.200 lavoratori è di 600 euro, premio concordato tra azienda e sindacati. Parla di svolta storica l'amministratore delegato del gruppo Fiat, Sergio Marchionne. E adesso, prima di arrivare alle novità, agli aggiornamenti sulla manovra, è una giornata un po' complicata, continua a slittare l'intervento di Mario Monti, evidentemente c'è qualche lungaggine in più. Tra l'altro su questo segnalo, poi ne parleremo, segnalo che c'è anche una dichiarazione importante sui tempi di questa manovra e poi vi arriviamo, però vorrei raccontare ancora due cose che riguardano in realtà l'economia internazionale. Allora, la Commissione europea si accorge che è importante non pensare solo ai mercati ma anche alla crescita. La ringraziamo, l'ho detto oggi la Commissione europea nel rapporto trimestrale. La zona euro è in pericolo, è in territorio pericoloso, la crisi dei debiti è nella fase di contagio e l'Europa non può permettersi il lusso di pensare solo alle sfide immediate che le pongono i mercati, ma deve assicurare anche crescita e sostenibilità del debito. Ma Bruxelles lo deve spiegare alla Germania e quindi anche alla componente Bundesbank dentro la Banca Centrale Europea. E poi il presidente dell'Eurogruppo, della Commissione Europea, scusatemi, José Barroso, all'Assemblea Plenaria di Strasburgo, ha detto: l'accordo raggiunto venerdì non è abbastanza, perché il problema non è solo di conti pubblici ma anche finanziario, quindi serve rilanciare crescita e occupazione. Ok, anche a Barroso, voglio dire, dovete spiegarlo alla Germania, che insiste solo ed esclusivamente sui conti pubblici. E poi c'è Herman Van Rompuy che dice: il 2011 è un anno orribile, ma un giorno sarà probabilmente ricordato come l'anno Mirabilis. Sì, noi ce l'auguriamo, nella vita può capitare di avere un periodo che è disastroso e poi dire: ma in un futuro dirai che grazie a quello hai cambiato, hai risolto alcuni tuoi problemi, ti sei dato nuove regole, un nuovo stile di vita. Ecco, speriamo che valga anche per l'Europa. Quel che è certo è che per ora è solo l'anno Horribilis, poi forse sarà Mirabilis. E poi una notizia triste, che ci lo dico senza nessuna demagogia, però la crisi colpisce anche i ricchi. Nel 2009 l'1% più ricco degli statunitensi possedeva il 17% della ricchezza totale. Insensibile calo, lo dico con estremo rammarico, rispetto al 23% che possedeva nel 2007. Sono i dati dell'Agenzia delle Tasse americano. Il 2011 è inoltre annata molto deludente per i fondi altamente speculativi, anche questa cosa ci lascia veramente rattristati. I fondi hedge, che sono riservati solo a chi ha tanti tanti soldi da investire, hanno perso mediamente fino al 9%, a fronte di un calo di circa il 3% dello Standard & Poor's. I pensionati, i lavoratori interinali, i cassintegrati e tutti coloro i quali pagano regolarmente le tasse, si uniscono al profondo cordoglio dei ricchi americani e dei miliardari degli hedge fund. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con certo calma. Sono distrutto dalla notizia che l'1% più ricco degli americani abbia visto ridursi dal 23 al 17% il totale della ricchezza e che gli hedge fund hanno perso il 9%. Vabbè, magari faremo anche una puntata sulle difficoltà di vita di questo 1% ricco, vale anche per gli italiani. A chi ci scrive, siamo d'accordo, ci sono troppe tasse forse in questa manovra, e soprattutto quello che dicevamo ieri è, si poteva tentare invece che la manovra solo sulle pensioni, va bene innalzare l'età pensionabile, però a sto punto addizionare IRPEF, contributi solidarietà, avessero fatto la patrimoniale sui redditi molto alti, da 1,5 milioni, 2 in su, sui patrimoni molto alti, forse l'effetto, diciamo, ridistributivo era maggiore, no? Vincenzo Miglietta è in collegamento con noi perché vorrei capire, parla, non parla Mario Monti? Vincenzo, buonasera. Vincenzo? Miglietta? Ci sei? No, non c'è Vincenzo Miglietta, non mi sente evidentemente, è in collegamento, sta cercando di capire anche lui se parla o non parla Mario Monti. Intanto vi voglio far ascoltare che cosa ha dichiarato il ministro welfare Elsa Fornero, che oggi in audizione alla Commissione Lavoro della Camera ha detto: ho riguardato i dati sulla generazione 1952, faremo in modo che a parità di saldi ci sia un'attenuazione rispetto al fronte incremento della vita lavorativa che è stato richiesto. Cioè lo scalone grosso, il salto grosso sulla becca alla generazione 1952, Elsa Fornero. Faremo in modo che ci sia a parità di saldi una attenuazione, parlo di attenuazione. Attenuazione è qualcosa di modesto, non è qualcosa di grosso, ma faremo in modo che ci sia l'attenuazione rispetto a questo forte incremento di vita lavorativa richiesto. Però è anche vero che quelli del 52 che hanno cominciato molto presto come precoci sono già fuori, non sono dentro. Vedo che sui ricchi americani c'è chi si scatena, che vuole uno sciopero generale per solidarietà con i ricchi americani, c'è poi chi scrive quanta demagogia del... Demagogia. Forse se ci fosse stato un po' più di demagogia non saremmo arrivati qua sull'orlo del precipizio, no? Magari quando nel 2007, 2008, 2009 raccontavamo che le banche americane si erano rimesse nel 2009 a fare esattamente quello che facevano prima, che coi soldi dei contribuenti, anche quelle europee, con cui erano state salvate, si erano rimesse a comprare, a speculare e poi a riempirsi di obbligazioni e a ridarsi bonus miliardari. Nel 2009 Wall Street ridistribuisce, nel 2010 Wall Street distribuisce bonus superiori al 2007, all'anno pre-crisi. E mo nel 2011-2012 siamo di nuovo qua con questa crisi che non se ne va. Allora, sempre Elsa Fornero, favorevoli ad allargare la perequazione dopo aver chiarito che cercherà di smussare il salto, lo scalone per la generazione del 52, siamo favorevoli ad allargare la perequazione. C'è un atteggiamento del governo di una certa disponibilità ad attenuare le cose più severe che voi avete sottolineato, inclusa la perequazione, la mancata perequazione delle pensioni, quindi un allargamento della platea, c'è un atteggiamento favorevole ed è proprio queste sono le ore in cui io spero che chiuderemo, non per la soddisfazione di tutti, perché è difficile dire che ci sarà soddisfazione, ma io spero con una maggiore fiducia nel futuro. E poi la dichiarazione più raccolta. Intanto Vincenzo Meglietta, ci sei? Sì, buon pomeriggio. Ma dove eri con Monti? Dove eri finito? No, sono in anticamera insieme ad altri giornalisti in attesa del Presidente del Consiglio. Ah, ecco perché eri assente. No, perché non ti trovavamo. Comunque, Elsa Fornero, Ministro Welfare, sua dichiarazione che ha fatto è risultata la più forte, è quella ripresa anche da tutti i GR e TG, stiamo pensando a un prelievo del 25%, come contributo di solidarietà per le pensioni sopra i 200.000 euro, quindi se capisco così più o meno siamo intorno ai 50.000 euro di contributo, 25% è un quarto. Ascoltiamo questo passaggio. Personalmente io ho riproposto una misura che fa un prelievo del 25% come contributo di solidarietà sulle pensioni al di sopra dei 200.000. Vincenzo, insomma, su questo poi ha parlato anche il presidente dell'INPS Mastrapasqua per quello che riguarda la rivalutazione delle pensioni. Allora, ci dai notizia, ci sarà il CDM e interverrà Monti prima al Senato, poi ti rimetto in collegamento dopo il metodo, ma intanto per capire gli ultimi aggiornamenti. Sì, ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrebbe deliberare la fiducia che però poi sarà posta qui in Parlamento, prima alla Camera, poi al Senato, ma il Presidente del Consiglio dovrebbe comunque intervenire anche nelle commissioni Finanze e Bilancio per puntualizzare le anticipazioni che comunque tu hai dato sulla manovra, quindi dalla perequazione ai vari altri dettagli che sono usciti negli ultimi minuti. Ecco, perequazione, ci chiede qualcuno che vuol dire, è l'opposto di sperequazione, quindi maggiore omogeneità, maggiore uguaglianza nella manovra, maggiore capacità di tener conto di tutti, favorevole ad uguale perequazione. Mi rendo conto che la dichiarazione così com'è è una dichiarazione che vale così, vale i baci Perugina se il ministro Fornero non si arrabbia. E quale governo è favorevole ad allargare la sperequazione? Tutti vorrebbero allargare la perequazione, bisogna capire come si fa. Dopo il metodo vediamo che cosa ha creato questi ritardi tutto il pomeriggio nell'intervento di Mario Monti. 349-238-6666 per i vostri sms. Sentiamo anche il presidente dell'INPS Mastrapasqua sulla rivalutazione delle pensioni minime. Meteo. Focus Economia. ...17.40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Vincenzo Meglietta, nella pausa, durante la pausa è uscito di tutto, nel senso che stanno battendo le agenzie, i flash sui dettagli della manovra, e allora ce ne sono anche di importantissimi. Iniziamo da una cosa che, lo dico senza nessun problema, a me fa molto piacere, cioè più tassano i capitali scudati più sono contento. È inutile che mi rompiate le scatole su Facebook. I capitali scudati sono capitali illecitamente portati all'estero, che non hanno pagato tasse in Italia, che sono frutto in alcuni casi di lavoro regolare, in altri casi di lavoro anche nero, in altri casi ancora delle mafie, che sono rientrati pagando il 5% grazie all'allora ministro Tremonti, che diceva se no non sarebbero rientrati, fatti suoi, e hanno pagato il 5% quando un normale lavoratore paga dal 35 al 43% per guadagnare molto meno. Parlate con i responsabili di banche, vi dicono che sono rientrate cose incredibili, anziani, signore con decine di milioni di euro, in totale sono rientrati 104 miliardi di euro, 104 miliardi di euro. Ora, la notizia dell'ultimo minuto è che la tassa sullo scudato sale al 2%, per me poteva salire anche al 4%, tanto se l'alternativa è, come previsto dalla legge, che a quel punto decade il segreto, ricatto, non ricatto, non me ne frega niente, alla guerra come alla guerra, se qui tutti devono soffrire, se i pensionati sopra i 1000 euro al mese non avranno neanche la rivalutazione delle pensioni, scusatemi, ma la lacrimuccia, come per i ricchi americani, per chi ha scudato il capitale gli tocca pagare un 2%, non mi viene fuori. Vincenzo Miglietta, al di là del 2% sul capitale scudato, ci sono novità anche e soprattutto, e queste non belle, sull'imposta da 34 euro sui conti correnti, Vincenzo. Sì. Sì, è così, vorrei solamente dire un'altra cosa sui capitali scudati, che saranno comunque soggetti anche ad un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per 1000, e per gli anni 2012 e 2013 l'aliquota sarà del 10 per 1000, questo per quanto riguarda i capitali scudati. Per quanto riguarda gli estratti conti, in effetti c'è una tassa annuale di 34,20 euro per l'invio dell'estratto conto annuale, quindi alle persone fisiche, tassa che arriva a 100 euro se il cliente è una persona diversa da persona fisica, quindi tutto il resto. Cioè 34 euro in più all'anno per l'invio dell'estratto conto dalla banca al cliente, vabbè, basta non farselo mandare, no? mi sa che non è possibile, però su questo sospendo il giudizio, non lo so, perché sennò ha tutto via internet, può anche, non so se possa chiedere di non farsi mandare l'estratto conto cartaceo e risparmiare 34 euro. Se c'è qualche bancario che ascolta, me lo scriva e gli do la risposta immediatamente. Rendita catastale sulle banche e sulle assicurazioni cresce, e invece aumenta la detrazione per quello che riguarda la IMU, cioè la ICI di una volta, sulla prima casa per i figli. Cioè, non prima casa per il figlio, sulla prima casa se si hanno figli. Sì, per quanto riguarda l'IMU, la vecchia ICI, l'unico dubbio rimane al momento sulla franchigia iniziale, che era fino a 200 euro. Alcuni testi che girano in questo momento pongono alcuni ancora i 200 euro, altri 170 euro, quindi diminuirebbe forse la franchigia iniziale, ma poi, come dicevi tu giustamente da studio, ci sarebbero questi 50 euro ulteriori per ogni figlio a carico, fino a un massimo totale di detrazioni di 400 euro. I figli non devono superare i 26 anni di età e devono essere residenti nel nucleo familiare relativo all'abitazione. Questo per quanto riguarda l'ICI, IMU, e poi è confermato che per quanto riguarda l'indicizzazione delle pensioni non vi è più il blocco fino a 1.400 euro, questo per quanto riguarda il prossimo anno, mentre nel 2013 si ritorna solamente al doppio, a due volte il minimo della pensione, quindi fino a 935 euro. Allora, mi hanno scritto i bancari, dicono no, attenzione, anche se capisco bene, perché i messaggi sono abbastanza in linea, quindi c'è una certa affidabilità, anche se l'estratto conto bancario arrivasse in via informatica, elude le spese di invio ma non di bollo, e quindi diciamo l'estratto conto si ritiene comunque inviato, quindi 34 euro ce li becchiamo. Vorrei capire a questo punto però se questo vale anche per i conti correnti aperti, perché sarebbe una beffa che i pensionati che ricevono la pensione o chi vuole deve ricevere dei pagamenti dello Stato sopra i 500 euro, siccome l'ABI, le banche italiane hanno detto faremo questi conti correnti a costo zero, la manovra è una manovra anti-evasione chiaramente, mi chiedo se poi però questi conti correnti quando manderanno all'estratto il pensionato a 700 euro si troverà i 34 euro di costo, non lo so, 100 euro comunque se il soggetto non è una persona fisica, detrazione prima casa l'hai spiegata, fino a 400 euro nel caso di figli, cioè l'aumento della detrazione, questa è bellissima, è di 50 euro nel caso di figli di età non superiore ai 26 anni, perché in Italia fino a 26 anni sei ancora un figlio che sta in casa. Adesso questa non è colpa del governo Monti, ci fu un allora ministro Padoa-Schioppa che li definì bamboccioli, ma insomma fino ai 26 anni in questo paese si ritiene che tu sia ancora un figlio che può godere della detrazione a casa. Grazie Vincenzo Miglietta, forse ti risentiamo dopo se continuano a buttare fuori le agenzie novità sulla manovra, il traffico, poi la borsa e poi la Fiat e poi altri dettagli sulla manovra. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la battuta sui 26 anni è inutile, per carità, uno può anche darmi dell'idiota, come fa un ascoltatore, dice quando sua figlia, io ho un figlio maschio, comunque è uguale il ragionamento, a 26 anni non troverà lavoro, cosa farà? La sbatterà fuori di casa? No, abbiamo solo detto, la prego, facciamo decine di puntate sulla disoccupazione giovanile e sulle difficoltà che hanno i giovani. No, abbiamo solo detto che in Italia è strano come la legge preveda la detrazione con i figli a carico, diciamo, se abitano in casa, fino ai 26 anni, cioè prende atto che in Italia a 26 anni molti, la stragrande maggioranza dei giovani sono ancora a casa. Questo era su questo c'era la battuta, non sul perché uno a 26 anni sia ancora in casa, lo sappiamo benissimo, un po' sono bamboccioni e un po' obiettivamente con 800 euro al mese, 1000 euro al mese non va da nessuna parte, ma questo è un discorso che abbiamo affrontato e riaffronteremo. L'imposta da 34,20 euro. Allora, molti ci scrivono, c'è già, lo so anch'io che c'è già. Io vi dico semplicemente quello che l'agenzia ha battuto come un nuovo emendamento del governo alla manovra. Per gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti è prevista un'imposta fissa di 34,20 euro se è persona fisica, di 100 euro se è soggetto diverso da persona fisica. Tutto qui. E spero che arrivino altri dettagli, perché io ripeto, il governo Monti aveva fretta e doveva uscire subito con una manovra, però adesso non vorrei ripartire come negli anni passati, centrodestra, centrosinistra, con 28.000 correzioni, ossia emendamenti alla manovra. Ci dessero alla fine un testo unico. Adesso però la borsa. Meno 0,30 Milano, meno 0,30 Parigi, meno 0,20 Francoforte, Londra più 1,15, l'America mezzo punto percentuale. C'è la Federal Reserve questa sera che si riunisce, c'è un indice tedesco buono, però le abbiamo raccontate varie dichiarazioni, Van Rompuy, Barroso, sul fatto che l'accordo di venerdì tra i paesi europei non basti, si debba pensare anche alla crescita. Chi non riesce a risollevarsi però sono le banche. Attenzione, perché Unicredit perde il 3,80, Monte dei Paschi il 3,30, anche oggi Ubibanca il 2,70, Popolare di Milano meno 2,20. Diverso il caso di Intesa San Paolo, che guadagna lo 0,33%. Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Le banche. Sì, le banche ovviamente risentono ancora dell'andamento dei titoli di Stato, del resto lo spread in chiusura di borsa è tornato a salire, si è attestato sul finale a 466 punti, livello che ovviamente è di guardia e continua a far paura. Poi le banche in Italia sono in odore di aumento di capitale, Unicredit sappiamo che lancerà inizio 2012 un'operazione da 7,5 miliardi e quindi oggi ha perso il 3,78%, UBI ha perso il 2,7%, ma anche in questo caso secondo l'EBA, ovvero l'autorità europea delle banche, l'istituto dovrebbe rafforzare il capitale per 1,39 miliardi, discorso simile per MPS che dovrebbe rafforzare il capitale per 3 miliardi e non a caso oggi ha perso il 3,3%. È stata un'eccezione Intesa San Paolo che è salita dello 0,3% e sul finale anche Banco Popolare ha registrato un progresso del 2%, in questo caso nonostante secondo l'EBA anche il Banco Popolare sia nella lista delle banche che dovrebbero rafforzare il capitale, in questo caso per 2,7 miliardi di euro. Allora, per ciò che riguarda il mondo bancario, c'è un altro titolo che è finanziario, assicurativo, ma vive una dinamica tutta sua e i problemi grossi che ha il controllante, la famiglia Ligresti, quindi la Premafin. Mi riferisco chiaramente a Fondiaria SAI. Sì, Fondiaria ieri SAI. C'è stato il consiglio di amministrazione. Ieri c'è stato il consiglio di amministrazione che si è chiuso praticamente con un niente di fatto, nel senso che il consiglio di amministrazione ha dato mandato ai vertici della compagnia di studiare tutte le soluzioni per rafforzare il capitale e quindi portare i ratios della compagnia in una situazione di sicurezza e in verità adesso non lo sono. Ovviamente il mercato ragiona più che altro sull'aumento di capitale, sarebbe il secondo in un anno visto che solamente la scorsa estate la compagnia assicurativa aveva lanciato un'operazione da 450 milioni di euro e nei giorni scorsi ricordiamo che Mediobanca aveva sollecitato per un'operazione da 500-600 milioni di euro, sono tanti soldi che verrebbero di nuovo chiesti ai soci e agli azionisti. Ancora per quello che riguarda i titoli di Fiat parleremo dopo, c'è l'accordo appunto su tutto il gruppo Fiat, Auto si muove poco, più 0,30 Fiat Industrial, quindi camion e trattori più 1,21%, Di Assori in più 4%, ebbene, E ancora male di nuovo oggi, oltre ai bancari e appunto la fondiaria, Finmeccanica è meno 2,80% a 2,84. Sì, Finmeccanica più che altro ha aggiornato anche nuovi minimi storici, il titolo continua ad andare giù, soprattutto da metà novembre, che praticamente sta quasi inanellando un giorno dietro l'altro un ribasso, sia a causa, abbiamo visto, dei conti deludenti, sia a causa anche degli scandali che hanno coinvolto la società. Gli investitori ancora non si fidano e si vede anche dall'andamento della borsa. Allora, adesso abbiamo il GR, grazie all'onore Micheli, e vi do i migliori peggiori in assoluto. Mondadori più 11% e Sintesi più 9,80, Ceramiche Richetti più 6,40, CHL più meno 11,13, il peggiore, Cogem meno 9,95%. Molti camionisti ci chiedono di parlare di loro, parleremo anche dell'autotrasporto quando riusciamo a respirare dalla cronaca. Il GR adesso. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, mentre continuano a uscire i dettagli sulla manovra, e adesso vi raccontiamo una precisazione. Allora, di nuovo sui bamboccioni, su chi a casa con i genitori 26 anni, non c'è stata nessuna critica, né men che meno alcuna ironia, visti gli stipendi delle giovani generazioni e quello che sta capitando anche a livello contrattuale. Abbiamo solo detto che è singolare come anche la legge prenda atto del fatto che in Italia a 26 anni o a 25 anni un figlio può essere tranquillamente a carico, tant'è che nella norma che è uscita, nell'emendamento che è uscito, la detrazione per la nuova IMU, cioè l'ICI sulla prima casa, sale da 200 euro fino a un massimo di 400 euro, l'aumento della detrazione di 50 euro nel caso di figli di età non superiore ai 26 anni. La battuta era su questo, sul fatto che la legge prende atto del fatto che a 25 anni se puoi essere tranquillamente un figlio a carico in questo paese, ed era una battuta amara, perché a noi piacerebbe un paese in cui a 20 anni sono già fuori casa perché riescono, perché gli stipendi sono adeguati, e quindi la norma non vada a portare fino a 26 anni quella che è la detraibilità sull'ICI. Ancora per quello che riguarda le novità, ve ne dico due. La manovra, dunque, il contributo sulle pensioni oltre i 200.000 euro è fissato per la parte eccedente i 200.000 euro al 15%, quindi non più 25% come ipotizzato oggi dal ministro Fornero. Con l'imposta di 34 euro sugli estratti conti correnti inviati dalle banche ai clienti, e questa viene confermata, non ci sono smentite. E poi vabbè, l'austerity anche a Bruxelles, per cui la Commissione europea si adegua alla crisi, taglia posti e stipendi dei funzionari, ritarda l'età pensionabile, aumenta l'orario di lavoro e il contributo di solidarietà. Questo permetterà di risparmiare a Bruxelles 1 miliardo di euro entro il 2020. Sale, ve lo confermo, la rendita catastale su banche e assicurazioni. Sostanzialmente il coefficiente per rivalutare le rendite catastali per banche e assicurazioni dai 50 della normativa vigente passa a 60 in manovra, arriva a 80, e questa è un'altra novità, ve le stiamo raccontando praticamente in diretta. Vorrei adesso però tornare anche alla cronaca e aprire una piccola parentesi su quello che è accaduto oggi alla Fiat a Torino, all'Unione Industriali, perché si è firmato un contratto importantissimo per gli 86.200 lavoratori del gruppo Fiat dal 1 gennaio, il nuovo contratto. Firmato da tutti tranne dalla FIOM, quindi confermati anche gli investimenti di Fabbrica Italia. Il progetto Fabbrica Italia prevede 20 miliardi di investimenti per portare la produzione in Italia dalle attuali 650.000 vetture a 1.400.000 vetture, di cui 1 milione destinate all'export. Per ora però, va detto, gli unici investimenti effettivamente stanziati dalla Fiat sono stati gli 800 milioni per lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove verrà prodotta la nuova Panda. soddisfatti i sindacati che hanno firmato, è l'accordo di Pomigliano che viene esteso a tutti gli 86.000 lavoratori della Fiat. Rocco Palombella, segretario generale della UIM, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Allora, soddisfatto anche lei, mi sembra Palombella, sono 600 euro per, come premio di produttività per l'anno prossimo, se ho ben visto. Sì, sì. Ecco, mi faccia capire una cosa, ma la FIOM non ha firmato quindi? Beh, è un copione che si ripete, voglio dire, non è una novità. Ma questa non è una novità, lo so. Ma... No, non fa più testo, voglio dire, la FIOM non ha firmato l'accordo di Pomigliano che noi domani, per esempio, si inauguriamo, da domani... C'è un'inaugurazione, appunto, c'è l'inaugurazione dello stabilimento di Pomigliano per la produzione della Panda, e quindi voglio dire un accordo fatto il giorno prima, la vigilia di questo importante evento e appuntamento, beh, io ritengo che sia una cosa da segnalare. Il fatto che la FIOM non abbia firmato, ormai la FIOM non ha firmato Pomigliano, non ha firmato Mirafiori, non ha firmato Grugliasco. Quindi la FIOM ha deciso, voglio dire, di collocarsi in una posizione, voglio dire, di critica, e sta ovviamente assumendo una posizione che voglio dire, che io non voglio criticare, però voglio dire, non è tipicamente di un sindacato. Le organizzazioni, no, ma glielo chiedo perché, essendo la FIOM il sindacato più rappresentativo... Beh, no, non è più rappresentativo, è un sindacato rappresentativo, beh, però non è il più rappresentativo. Insomma. Comunque, essendo un sindacato importante dentro il mondo, sì, metalmeccanico, certo. Non rischia di partire zoppo l'accordo? Beh, il fatto che l'accordo non sia partito zoppo quello di Pomigliano è una dimostrazione, un anno e mezzo, che l'investimento si realizza e che le automobili vengono prodotte. Poi, ovviamente, io come sindacalista ho lavorato, ho cercato di in questi mesi di colloquiare con i colleghi della FIOM per convincerli che un sindacato che non fa accordi, che si sottrae alle intese, è sicuramente un sindacato che voglio dire ha poche ragioni di esistere, nel senso un sindacato, e quindi voglio dire noi non abbiamo né brindato né ci beiamo del fatto che la FIOM non sia all'interno dell'accordo, però io ritengo che la scelta della FIOM è quella comunque di continuare ad essere un sindacato sicuramente rappresentativo, ha la possibilità, voglio dire, di rappresentare lavoratori, come ovviamente è giusto che sia, perché la Costituzione, perché la legge 300 gli consente ovviamente la possibilità di rappresentanza, anche in presenza di un accordo fatto dalle altre organizzazioni, però è una scelta, voglio dire, che attiene a questa organizzazione sindacale. Ma non ho capito, ma lei dice, siccome tanto a Pomigliano il loro essersi dissociati e il loro non aver firmato non ha avuto effetti, lei ritiene che non avrà effetti anche nelle altre fabbriche della Fiat? Ma presumo proprio di no, anche perché, ripeto, questo sindacato, se ha gli iscritti, continuerà ad avere gli iscritti, se ha i suoi rappresentanti, continuerà ad avere i suoi rappresentanti. Il vero problema, ripeto, in una fase come... Io potevo, per alcuni versi non l'ho capita, però potrei anche giustificarle, nell'ipotesi di Pomigliano un anno e mezzo fa, un sindacato che ritiene di fare la sua battaglia su questioni soprattutto di principio, perché di merito non c'è nulla, ma a distanza di un anno e mezzo, con la nostra economia ormai, se sentivo i suoi commenti, insomma, che sono drammatici, voglio dire, un paese che non è nelle condizioni di poter andare avanti, ormai si taglia da tutte le parti, non ci sono interventi sulla ripresa, cioè una realtà che dice di investire, ma che comunque non dichiara i subberi, non dichiara chiusure di stabilimenti, tranne la mera parentesi negativa che noi abbiamo cercato di dare anche una di Termini Imerese, mi scusi. Sì, no, è che noi, voglio dire, non abbiamo salutato positivamente, però un gruppo industriale che riconferma i suoi 86.000 dipendenti solo Fiat, e poi tutto il resto dell'economia che ruota intorno con il sistema degli appalti, il fatto di aver realizzato un'intesa senza che ci sia un esubero, senza che ci sia la denuncia di un stabilimento, io ritengo che di questi tempi, con questa situazione, io dico che sia da incentivare, sia da valorizzare. Sì, ecco, su Termini Imerese mi faccio dare anche un aggiornamento, perché le nuove norme per andare in pensione non si applicheranno ai lavoratori collocati in mobilità lunga dagli accordi stipulati dal 4 dicembre 2011, quindi Termini Imerese, voglio anche vedere, perché sennò è ricornuto e mazziato, cioè ti chiudono la fabbrica e devi pure andare in pensione più tardi. Vabbè, noi sembrava... prima di realizzare quell'intesa chiedemmo appunto l'impegno dei due ministri, sembrava una cosa alla Brecht. E invece viene poi alzato il tetto dei lavoratori da salvare dalle nuove norme pensionistiche da 50.000 a 65.000. Resti con noi, Palombella, perché dopo il traffico vorrei capire, insomma, i dettagli che più vi hanno convinto di questo accordo. Marchione ha detto: manteniamo i diritti acquisiti, vi saranno dei vantaggi economici, e quindi i 600 euro, se ho ben capito, di premio per l'anno prossimo alla produttività. Dura invece, come ne immaginava, il segretario CGIL Susanna Camusso, che ha detto: non posso che confermare che l'accordo impone e propone il tema della modifica dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. L'accordo senza la FIOM, che in base all'articolo 19 è esclusa dalla rappresentanza a questo punto negli stabilimenti Fiat. Il traffico prima. Per 18 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, molti messaggi al 349-238-6666 ci chiedono correttamente di chiarire, adesso torno da lei Palombella, se la rivalutazione automatica delle pensioni, quindi l'adeguamento al costo della vita, è riconosciuta. L'emendamento prevede che sia riconosciuta per il 2012 esclusivamente, leggo testualmente, ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo, e nel 2013 fino a 2 volte. Il trattamento minimo è 470 euro, quindi parliamo di meno di 1.500, 1.400, 1.300 euro per il 2012 e meno di 1.000 euro per il 2013. Giustamente ci chiedete: ma è la parte eccedente che non viene rivalutata o è tutta la pensione che supera questa soglia che non viene rivalutata? Non riesco a dirvelo perché il testo ve l'ho appena letto e non è chiaro. Attendiamo notizie, chiedo venia, ma non è colpa nostra. Palombella, la cosa che più le è piaciuta dell'accordo, visto che l'avete firmato con la Fiat, al di là del mantenimento occupazionale che è fondamentale, che cos'è? Perché è chiaro che, insomma, Marchione dice i dipendenti manterranno i diritti acquisiti, però sappiamo tutti che cambiano gli straordinari, sono di più turni, 10 minuti meno di pausa compensati dai benefici in busta paga, nuove norme sull'assenteismo e sulla rappresentanza sindacale. Avete avuto garanzie sul progetto Fabbrica Italia, no? Sì. No, io la cosa che volevo così rappresentare è quella. Allora, nel momento in cui si parla di straordinari, no, vuol dire che lo stabilimento produrrà, cioè lo stabilimento avrà la possibilità, perché noi, se non parliamo di flessibilità, no, flessibilità governate, flessibilità diciamo concordate, la flessibilità governata non è altro che la possibilità che uno stabilimento sia in vita, sia in produzione, perché noi possiamo fare tutte le norme di questo mondo, ma se lo stabilimento e la produzione non c'è, ahimè, siamo fregati. Quindi vuol dire che se noi abbiamo concordato norme sulle flessibilità, vuol dire che gli stabilimenti continueranno a vivere. Ma la cosa, diciamo, che io ritengo essere una delle cose importanti, qual è? Che può sembrata quasi in sordina, questo contratto durerà 12 mesi. Che significa 12 mesi? Normalmente i contratti hanno la scadenza, quello dei metalmeccanici dura 3 anni, la maggior parte dei contratti durano 3 anni. Sì. Questo invece scade al 31/12/2012. Quindi noi abbiamo la possibilità in questo anno di verificare l'accordistica, cioè verificare se le cose che noi abbiamo concordato hanno una loro tenuta. E poi abbiamo anche un'altra possibilità, che con la scadenza del contratto dei metalmeccanici, quello firmato da noi nel 2009, che scade appunto nel 2012, noi la cosa che ci chiediamo è quella di, e per questo l'abbiamo anche sottoscritta, è quella di verificare le possibilità di un rientro di Fiat all'interno di Confindustria, con la sua specificità, col suo contratto dell'auto, col contratto della Fiat. Capito, lei dice, al di là delle garanzie sugli investimenti, che sono importanti, che ho ribadito, c'è anche la possibilità fra un anno di andare a verificare come ha funzionato questo accordo e vedere se ci sono migliorie apportabili, magari far rientrare anche la FIOM. La FIOM può fare una sua valutazione, noi certo, non gradiamo una uscita fuori o la tenuta fuori di un sindacato importante, però riteniamo che ci siano le opportunità per poter diciamo guardare anche nella prospettiva, certo, in termini. No, ma secondo me la cosa più importante, lo dico appunto, non faccio sicuramente sindacalista, però è che Fiat mantenga gli impegni presi sugli investimenti in Italia, perché io sono d'accordo con un ascoltatore che dice, insomma, meglio fare 10 minuti in meno di pausa che essere disoccupati, siamo tutti d'accordo, in questo periodo, e però poi la correttezza vuole che Fiat mantenga i suoi impegni, certo. Perché lì poi l'investimento è proprio sull'Italia, non è sul singolo. Se Fiat non li mantiene, gli accordi che abbiamo fatto noi non servono a nulla. Vabbè. Gli accordi hanno una validità se gli investimenti vengono realizzati, certo. Altrimenti a che cosa Sarete, sarà a voi verificare perché questo avvenga. Grazie intanto, perché continuano nel frattempo uscimi agenzie sulla manovra. Qua oggi la puntata la stiamo facendo veramente in diretta, nel senso come temi. Grazie comunque, grazie. Al segretario Palombella della WILM, grazie. Allora, intanto, dunque, vi leggo le ultime agenzie. Allora, l'adeguamento al 100% dell'inflazione sarà garantito nel 2012 a tutte le pensioni pari al triplo del minimo INPS. Questo prevede l'emendamento. Nel 2013 l'adeguamento al 100% sarà limitato agli assegni pari al doppio del minimo INPS. Io, per come lo capisco, capisco che gli altri sono esclusi, non è la quota restante, non è la parte superiore ai 1.400 euro, per come la capisco. Allora, della franchigia sulla prima casa abbiamo già detto, con i figli fino a 400 euro di valore di franchigia e della detrazione, e poi l'imposta a bollo che sugli stati di conto, che sarà 34,20 euro. Dunque, sui capitali scudati c'è l'1,5% di tassa straordinaria, però c'è un'imposta di bollo speciale annua del 4 per 1000 e per gli anni 2012-2013 un'aliquota fissata nella misura del 10 per 1000. Chi in realtà poteva essere contento, visto che si sono sbloccati alcuni investimenti sulle opere infrastrutturali, era il mondo dei costruttori. Mi sembra di vedere che così non è. Presidente Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, buonasera. Buonasera a lei. Ma nemmeno voi siete contenti? No, ma noi non siamo contenti degli effetti, diciamo, sulla crescita del settore che ci aspettiamo nella fase 2 del governo. Per la manovra così come è stata concepita, di cui apprezziamo molto i risvolti internazionali sul credito alle banche, ovviamente, quindi poi alle imprese e alle famiglie di conseguenza, e su quello niente da dire, andava fatta in pochissimo tempo, però picchia sulla casa principalmente e non ha sostanziale spinta al settore che ci aspettiamo ormai da troppo tempo per ripartire. Le imprese sono allo stremo tra mancati pagamenti, difficoltà di finanziamenti e un mercato che non va. Senta, sui mancati pagamenti, perché poi anche voi siete molto colpiti come le imprese che lavorano con la sanità pubblica, l'ipotesi che poi è tramontata di Corrado Passa di utilizzare titoli di Stato vi convinceva? Ma certo, intanto sì, una soluzione bisogna trovarla. Quella lei dice piuttosto che niente, meglio piuttosto, come esatto, dicono a Milano. Sì, naturalmente c'era da trovare il meccanismo, perché la vedo un po' tramontata in questo momento. È un'idea, naturalmente la battuta è, allora uno poi paga le tasse, paga i fornitori, paga tutto con i bot. Non è così, bisogna trovare poi un sistema di renderli liquidi. Sì, però sarebbe migliorato il merito di credito vostro, perché se tu hai comunque dei titoli di Stato, magari anche vincolati, la banca sa che questi soldi ce li hai. Insomma. Intanto è un'idea, insomma. Certo. Vabbè, voi dite la patrimoniale, l'unica patrimoniale è sulla sì. casa. Avreste preferito una patrimoniale su tutto? Le devo dire il mio parere personale, sì. Secondo me una patrimoniale. Questa cosa è pazzesca, cioè centrodestra, centrosinistra, mondo delle imprese, tutti. Io lo dico perché io sono favorevole, cioè piuttosto che toccare la rivalutazione degli assegni pensionistici, meglio era fare una patrimoniale, mi sembrava più equa. Ma anche voi siete d'accordo? Interessante. Sì. Noi saremmo stati d'accordo su questo, perché sarebbe stata senz'altro più equa. Ci rendiamo conto della velocità del tutto, bisogna anche essere, come dire, equilibrati. Infatti io continuo a dire, perché siamo convinti, che questa è la prima fase, ci vuole una seconda fase, ma ci vuole presto, e noi ci aspettiamo che la seconda fase sia sulla crescita, soprattutto. Beh, a questo no, punto, beh, dato il segnale. Altre tasse no, dai. No, altre tasse no, ma poi bisogna ridurre la spesa. E ridurre la spesa. Che c'è, ma bisogna ridurre la spesa pubblica, perché se no fra due anni, fra un anno, ci ritroviamo nelle stesse condizioni. No, su questo siamo d'accordo. Bisognerebbe cominciare sugli sprechi di tutti i tipi E voglio dire, ognuno deve fare la sua parte e poi ci vuole questo rilancio che noi pensiamo sia, insomma, le dico il titolo su sì. Piano città dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica, quindi gli interventi con il governo che ha mantenuto il 36% e il 55% di detrazione fino alla fine dell'anno prossimo, ci troviamo in una condizione di una grande rivoluzione da questo punto di vista da fare, la manutenzione, le norme anche sull'intervento nelle periferie, allora qui certo, ci vorrebbe un piano casa, adesso chiamiamolo in maniera forse impropria, però lei dice dopo che ci avete applicata la patrimoniale sulla casa, adesso aspettiamo una seconda fase, chiarissimo il suo ragionamento Buzzetti, una seconda fase di rilancio in cui vengono date anche agevolazioni per un cosiddetto piano casa. Io la ringrazio e in bocca al lupo anche a lei e a tutte le 20.000 imprese dell'edilizia che lei rappresenta. Ci chiedono alcuni ascoltatori perché non parlate dei vitalizi della stessa di scudi dei parlamentari quando hanno dovuto toccare anche i loro vitalizi, più che altro poi sono i rimborsi quelli che pesano, perché non ho voglia di prendere il Malox oggi e quindi non ne parliamo, se no mi sarei arrabbiato pesantemente. Il programma finisce qui, grazie a Paolo Buzzetti, presidente del Lance, domani racconteremo altri dettagli della manovra. Per ora da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, il Natale si sente.